tutta l'amore senza malinconia. Se vuoi trovar la via della felicità, non pronunciare un nome, lo scorderemo insieme, come la rondine che meta mai non ha. Canta felice al cielo la tua canzone di libertà. Lasciatemi cantare sotto le stelle, sotto la bianca luna. Se il cuore si innamora, sia bionda, rossa, bruna, le bacia tutte, non amar nessuna. La donna più sincera è una chimera come la dea fortuna. Se ce n'è qualcuna di lei non ti fidare, lasciatemi, lasciatemi cantare. Avevo una casetta dove la morte arriva con le viole. Io sorridevo al sole, tu sorridevi a me, ma un soffio di bufera me l'ha portata via. E da quel giorno che fuggisti pure tu, persi la donna amata, ma ritrovato la gioventù. Lasciatemi cantare, pur se cantando tremo di gelosia. Felice tu mio cuore, che sai dimenticare di credere all'amore d'affaria. Oggi sorrida il sole che mi rischiara ancora la vecchia via. Dove la mamma mia, lei sola mi può amare. Lasciatemi, lasciatemi cantare. E se ce n'è qualcuna di lei non ti fidare, lasciatemi cantare, cantare.